Sud Sudan. L'alba di una nazione di Gigi Donelli. If you don't have work for NGO, you work. Amin Silvester Tabana, 30 anni, due figli e di mestiere fa l'autista. Ha combattuto per l'indipendenza del Sud Sudan portando il fucile per 5 anni nelle file dell'SPLA. Ora però a fargli davvero paura sono i prezzi, quelli che trova al mercato centrale della nuova capitale Giuba. A 100 giorni dalla nascita dell'ultimo Stato africano, il Sud Sudan non ha dimenticato l'euforia della libertà, conquistata con la secessione da Khartoum e proclamata solo nel luglio scorso. Ora però si trova a combattere la battaglia senza gloria per il cibo quotidiano. In meno di 30 mesi qui in Sud Sudan i prezzi degli alimentari sono quasi triplicati. Per il quintale di riso bastavano $50 nel 2008, oggi ne servono 135. Farina, cassava, ma anche uova e carne, tutto rincara, in un paese che pure ha più capi di bestiame che anime. Grandi distanze, campi abbandonati e improduttive, piste impossibili dove l'asfalto è un miraggio. Il mercato di Juba Town, quello della gente normale, vive dunque di prodotti importati dal Kenya e dall'Uganda. E persino la benzina, in un paese che ha enormi risorse e di fatto sopravvive di petrolio, deve arrivare via camion da Mombasa attraverso il Kenya, perché non basta essere grandi due volte l'Italia per avere una raffineria che sia una. 30 anni di conflitto si toccano appena nel centro della nuova capitale, che poi è solo un villaggio cresciuto alle spalle di un porto fluviale sul Nilo. Amin, per quanto riguarda il futuro, ha le idee piuttosto chiare. Se trovi un lavoro con le ONG che sono piovute in città, costruendo enormi compound protetti da alti muri di cinta, allora te la puoi cavare benissimo in questo nuovo Far West africano. Altrimenti saranno guai. D'altra parte, dice, la libertà ha un sapore così buono che essere ottimisti qui è un obbligo.